no sé, no sé. Si estáis hablando alguien por la emisora, no se copia. Mira, es que hoy el primer turno que les... ¡Abagaba! Todo, si no revelado, está todo casi debajo, creo. Pues seguro, tú quieras. Es la mía. ¿Has copiado, Marquez? Necesito la tolva de camión. Venga, pasa que es que están hablando. Ya, perfecto. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Attenzione, su canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, var. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Qui qua, qui qua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paola, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Attenzione, Paola. Come sto scendo di radio che qua non riesco a sentirmi bene? FM! Ah, scendi la M! Tu dove sei? Sento strano già, non lo so come. Aspetta. Ora, sento basso anch'io. Sono in AM già. Ho capito che sei in AM. Sto arrivando lì, sto provando la panico. Vabbè, c'è un po' che va, c'è due e già arrivi bene, mia, adesso. Ora, adesso sì che mi sento, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ora, 1, 2, 3, prova, come sta andando, cala gara e cala gara. Tu affischi. Quello già lo so. Ah, quanto è questo? È affischi perché stavo usando un altro apparecchio per ascoltarmi. Vabbè, va, sta andando bene adesso, guarda, 1, 2, 3, prova. Vabbè, ascolta, già va bene. Cosa? Sì. Io ne giandi. Avanti. Controllo di segnale basta. Non riesco a accoppiare, non ti. Se mi dà un controllo di segnale. Tu che sei, avanti! Avanti l'amico del controllo! Ora attenzione canale 10, c'è qualcuno, cambio! Attenzione canale 10, cambio basso! Ora! Franco! Sei basso, sei basso sia di radio che di San Piano. Non sono a casa. No, San Piano no, San Piano va bene, sto controllando adesso che c'è quello scorso chiuso. Santiago già può andare, dai, sì, Santiago. Santiago 7 e mezzo, dai. Però la radio è bassissima. Anche perché c'è QRM, capito, fra? Ma Santiago 7, così basso qua. E dove sì? Sono in campagna, ma sto provando un baracchino che sta a 2 watt. Cosa pretendi, scusa, di arrivare. Se c'è 2 watt va bene, sta andando bene, cavolo. A Puglia che va bene. Dai già che sto chiudendo, sto facendo cos'è. E fai quello che devi fare, là. Non c'è problema, sono qua. Chi è? Avanti. Hola. Attenzione, attenzione, canale 10. Vabbè, no, io ti ascolto benissimo, cambio. Brico, senti qua, gatta. cava, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio. Attento, Natalino, cambio. Del rientro mi danno il colpo di grazia, casomai cambio radio, che metto quella con lo smitter, così vediamo se tutto è nella norma, dai. Sì, magari arriverò più basso, non lo so. No, queste distanze no, sarà uguale. Aspetta che lo attacco, cappa, dai. Non me sta in basso, dai, per non... Così almeno non me lo per le balle, disturbando, non sto disturbando perché sto guardando la televisione. A Londra, vediamo se tutto qua funziona tutto. Prova. Vedi un po', vai. Guarda, dai Marco, guarda come due basso sto usando però. Sì, cacchio, non dico io, ma sei Santiago 8. Sì, ma non dipenderà da me, aspetta che controllo i stazionari. Conta che c'è, se qua è 8 vuol dire che è 9, è normale. E vabbè, Santiago 9 già va bene, in due sto usando. Dopo lo provo con più razze, là. Sì, allora, qui uno sta a 1, però non mi aspettavo una differenza così abissale. Cioè, da 9.30 a 9. Capito, questo è tarato secco, se segna 8 è 9. Adesso vediamo come va più sui. Ma dovevi essere 9.25, cioè capiamoci. Ehi vabbè dai, adesso c'ho i batti sui, prova a vedere. No, siamo lì, 8 e mezzo. Ma pare strano a me. Pure c'ho uno sta uno e cioè qua è tutto a posto. Ma c'è una differenza abissale, cavolo. Basta l'antenna, L'ho messa a basso che arriva la bobina al secondo piano, non è che non è sul tetto proprio, è per quello. Praticamente di quanto esce dal tetto? Di quanto esce? L'ultimo stilo esce. Città ti copiamo lo stesso, però cacchio, da 9.25 a 9 è un bel. Vabbè, cosa ci vuoi fare, Marco? Vabbè, la situazione è temporanea, me la devi aspettare, poi... Ma come mai decidi di abbassarla? Perché se no era pericolosa, se questo mi fa qualche altro dispetto e ne cade addosso a qualcuno, pago io. Non hai capito? Vabbè, che se volesse far dispetti la fa cadere anche da lì, cioè non ci arriva lì all'antenna. Vabbè, comunque per il momento è che l'altro, capito, l'altro baracchino è senza smitter. Io ti sentivo bene, credevo fossi in fondo scala, e invece no. E vabbè, l'importante è che riesca a parlare con Sassari, che mi possa fare qualche DX. Di ex non lo so, però ci insegna le 9, ho controllato 9, diciamo che ce la fa, dai, arrivare a 9, ma poi probabile che mettendo il 3009 sia anche qualcosa di più, mi anche 9.5, chi lo sa, così è, e quindi qua sarà entrando poca gente, poco e niente, perché io manco, tu manchi. Infatti io non c'ero perché cazzo non potevo modulare. Se no era macello, era, ne l'ho tagliato, mi ho tolto tutto, solo l'antenna della 27 ho messo. Eia, qua sarei un po' di più lo smitter mio, trasmettendo. Lo stazionario è non, quindi ho controllato. E poi devo disossidare anche questo giunto, il barilotto, no? Perché piovendo, sai, si trovava ossido bianco, è come se si formava, una cosa allucinante lì. Qua ha messo settimana prossima, dice che mercoledì anche 35 gradi arriverà, ma stiamo scherzando. Io giro al mare, mamma mia, perché stavo facendo una friggitrice e due frigoriferi, abbiamo fatto due vetrine io e Franco, due vetrine refrigerate, e poi stasera abbiamo piazzato l'antenna, almeno me la sono portata da mezzo alle balle, perché mercoledì parte a Sirmione lui e torna a luglio, almeno è fatta e non sto senza antenna, dai. A parte a Sirmione, così è? E a Sirmione sul Garda, perché la sua compagna ha una figlia lì. Infatti non sapevo dove fosse, non avevo idea. E così è, insomma, almeno in città puoi parlare, salvo rottura di balle ulteriori. E anche oggi è andata, mamma mia. Lo so Marco, purtroppo se quella è ricoverata bisogna andare. Io non ci ho pensato che si è ricoverata pure la sorella di mia moglie, che gli ha preso infezione la parte dove l'hanno operata, poverina, e l'hanno tornata a ricoverare. Sì, no, va bene, nel caso di mamma le stanno facendo il tagliando, capito? La revisione sta facendo. E almeno te la mettono a posto, Marco, dai. Cazzo, se no non andava, se non si reggeva più in piedi, poi lasciamo verde. Almeno quando esce dall'ospedale è più tranquilla, dai. Sì, comunque è stato un episodio sporadico, è una cosa sporadica, cioè non è una cosa abituale, lei già si alzava, per fare danno già si alzava sempre. Adesso mi devo mettere a posto io, però sono sempre aisci, provo ad andare a Lourdes. E io lo stesso sono tutto messo male. Avevo un dolore alla gamba, cazzo, stasera, che tu non te lo puoi immaginare, Marco, guarda. Ma di tipo sciatico oppure cos'era? Non mi ricordo. Oh, è che ho un'arteria ostruita nella gamba e non mi arriva sangue. Ma un dolore allucinante ti viene, guarda. L'ho detto a una dottoressa stasera e lei lo sapeva benissimo la situazione. Adesso lo chiediamo a Gaia, che ci dica, ti faccio vedere la cosa, l'ecografia, e vediamo un po', cazzo, perché non mi busso più, Marco, non posso camminare. Sì, comunque già c'è, sono gli interventi per le arterie ostruite, già c'è qualche intervento, se no se si ostruisce il tutto è un problema, capito? Ma ti volevo dire, No, della cosa grattato. Io dico, sì, posso capire che sia stato un po' che abbia grattato il muro, ma addirittura trovarlo sguainato in quel punto mi sembra strano. È come se fosse stato grattato a forza, mi. E allora, ha grattato bene il muro, lo dovevi vedere, come infatti l'ho tagliato quel pezzo. Gli ho rifatto il PL nuovo, gli ho rifatto almeno un 2 metri, ne ho dovuto eliminare. Sì, infatti, ripeto, se toccasse normalmente, anche spostandola, no, non fa quell'effetto, quello è scorticato apposta, capito? Scorticato lo trovino. Infatti, magari la taglia a due dura di naglia, cosa ne so. Comunque, fatto sta che c'era il cavo così. E tu mi fai capire che tu qualsiasi cosa che fai, l'impianto, l'antenna, lo faccio a te, in faccia, capito? Vabbè, che è inutile, quelli sono di mestiere, capito, così, vabbè. Capo, stanotte c'è un bel film, Il Promontorio della Paura, quello con De Niro, con Nick Nolte, un bel film. Aspetta che mi stanno telefonando. Eia. Prova. Prova, eccolo qua. Prova, 1, 2, 3, non esce radio questa roba, per carità. Prova. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Prova 1, 2, 3. Marco, devo chiudere, che se no vivono, me lo può abbagliare la televisione. Ecco, digli a girarci i coglioni, scusando per la parolaccia, per chi ascolta. Infatti. Vabbè, dai, ci sentiamo un altro momento. Ha detto, quando la mettiamo sul tetto almeno non disturba più, e intanto io sempre a quell'ora chiudo, mi Giuseppe, la giudizio, perché non conviene pigliarlo di petto. Sì, se lo prendi il petto di qualsiasi uguale, mi romperanno le balle a vita. Vabbè, dai, ci sentiamo in migliore occasione, a Tari. Ciao, buonanotte. Ciao, Marco, le brutte.